Buongiorno, grazie. Buongiorno, buona domenica, benvenuti all'ultima delle nostre 10 lezioni di jazz di quest'anno. Prima di cominciare volevo darvi un paio di comunicazioni di servizio. La prima è che questa conferenza è legata a un concerto, l'ultimo dei concerti della stagione di Santa Cecilia, mi pare 14, 16, 17 di giugno, con Wayne Marshall che dirigerà appunto un estratto, vedremo, dei concerti sacri di Duke Ellington e la Swing Symphony di Wynton Marsalis. Quindi chi vorrà andare a seguire questo concerto sappia che questa lezione serve un po' anche a prepararsi alla conoscenza dei concerti sacri di Duke Ellington. La seconda comunicazione che volevo farvi è che l'8 giugno, come forse qualcuno di voi già sa, c'è un open day dell'auditorium in cui si potrà scorrazzare, diciamo così, liberamente nell'auditorium assistendo agli spettacoli e alle conferenze che verranno proposte nel corso di tutta la giornata. Il sottoscritto nella Sala Petrassi farà una conferenza alle 11 che sarà una sorta di, spero divertente, introduzione generale alla comprensione del jazz. Voi direte, sono 10 volte che veniamo qui, non ne abbiamo bisogno, però insomma io tiro pubblico come possibile. E vi ricordo che queste conferenze sono gratuite, questa conferenza, tutte le attività dell'8 sono gratuite, compresa la mia conferenza alle 11 che si intitola Il jazz non è poi così difficile. L'unica cosa che dovete informarvi sulle modalità di accesso, perché credo sarà necessario comunque acquisire un biglietto, anche se gratuito, per poi poter accedere alle diverse sale. Questo il giorno 8 alle ore 11 ci sarà questo mio ultimo incontro, poi vi prometto che per tutta l'estate non vi scoccerò e penso di poter annunciare che abbiamo già così cominciato a pensare al prossimo ciclo di lezioni che comincerà dall'autunno prossimo. No, saranno 10 perché ho anche una vita privata, diciamo, non posso vivere, dormire qui dentro. E tra l'altro volevo ringraziare le persone che negli ultimi minuti mi hanno anche già fatto dei pensieri, dei regali graditissimi. Sono veramente commosso, lo dico pubblicamente per invitare chi non l'ha fatto, ovviamente, a farlo. Allora, oggi parliamo dei concerti sacri di Duke Ellington, che è una materia molto, molto vasta, di cui cercheremo di dare una visione generale attraverso pochi esempi, una materia molto vasta perché si tratta di vere e proprie cantate, come si dice nel gergo e nel lessico della musica classica, ovvero brani strumentali e vocali scusate di carattere appunto sacro. Innanzitutto, prima di capire come, cosa, perché, cominciamo a, per chi non fosse addentro alla materia, a ricordare alcuni dati fondamentali. Ellington ha scritto 3 cosiddetti concerti sacri. Il primo fu composto nel 1965, lui non pensava di farne altri, quindi si intitola semplicemente Concert of Sacred Music. Il secondo arrivò nel 1968 e appunto fu chiamato Second Sacred Concert, e il terzo nel 1973, Third Sacred Concert, The Majesty of God, la maestà di Dio. Ci sono, prima di entrare nei dettagli del primo concerto sacro, una serie di considerazioni generali da fare. La prima è la più, diciamo, spinosa. Ellington era una persona religiosa? Probabilmente sì. Dico probabilmente sì perché mi sembra che la religiosità di Ellington sia vicina a quella religiosità, diciamo, non tradizionale che troviamo in altri compositori, anche con tutte le diversità e i distinguo possibili. Mi viene in mente Igor Stravinsky, per esempio. Ellington da ragazzino a Washington, vi ricordo che era nato a Washington, frequentava due chiese, la chiesa metodista, il papà lo portava nella chiesa metodista a sentire le messe tradizionali con gli inni luterani, gli spiritual classici, molto, tutto molto in un clima estremamente formale, di ritualità molto rigida. Dopodiché, a volte nella stessa giornata, la mamma lo portava invece nelle chiese battiste, dove si cantava il gospel più acceso, più ritmico, più fisico anche, con cenni di possessione anche da parte dei fedeli, in questa ritualità dove c'erano ritmi molto più danzanti, i corpi si agitavano e le voci avevano modo così di esprimersi in maniera più libera. Quindi Ellington ha fatto esperienza, come dire, in chiesa di tutti e due gli aspetti della religiosità afroamericana, quella più formale legata alle chiese battiste e quella invece più libera, disinibita e corporea, se vogliamo alla fin fine più africana, delle chiese metodiste. In più noi sappiamo che da un certo punto della sua vita si era abbonato a una specie di newsletter religiosa che riceveva regolarmente, ma certamente oltre, diciamo, a questi segnali di una qualche forma di sentimento religioso, Ellington per il resto è stato un grande peccatore, con la G e la P maiuscola. Un grande peccatore per due motivi. Intanto per fatti suoi, voglio dire, per la sua vita privata. È stato un uomo che da un punto di vista così della religiosità tradizionale, visto come grande peccatore, perché è un uomo che ha amato moltissimo, tantissime donne, e poi un grande peccatore perché, in un senso più generale e non ironico lo dico, perché ha vissuto nel mondo della vita notturna dello spettacolo americano, in particolare del jazz. E il mondo della vita notturna e dello spettacolo americano è stato tradizionalmente, noi in Europa ne abbiamo minore percezione di questo, ma è stato tradizionalmente un mondo legato fortemente alla malavita, alla prostituzione, alla droga, diciamo da un punto di vista della Chiesa, al peccato. Effettivamente il mondo dei locali notturni era un mondo per molti versi marcio, un mondo di sopraffazione, un mondo di sfruttamento, un mondo di delinquenza, nella quale i musicisti hanno provato evidentemente a sopravvivere, ad arrangiarsi, spesso compromessi con quel mondo o semplicemente costretti a venire a patti con quel mondo. Quando il tuo datore di lavoro è comunque un mafioso, che come al Cotton Club, che era gestito dalla mafia irlandese, dalla mafia ebraica e da quella italiana, che si erano messe d'accordo per gestire questo locale, il film Cotton Club di Francis Ford Coppola lo mostra molto bene. Quando il tuo manager Irving Mills è un uomo che pappa e ciccia con la mafia ebraica e irlandese di New York, parlo del manager di Duke Ellington negli anni 30, è chiaro che conosci quel mondo veramente a fondo. Ed è un mondo che la Chiesa non approvava, ovviamente. In realtà neanche le famiglie borghesi l'approvavano. Sappiamo, per esempio, che molti musicisti avevano, come dire, il parere contrario delle famiglie, che si mettevano di traverso prima di diventare musicisti in quel tipo di mondo. Voleva dire comunque andare a finire in postacci. Impostacci che le famiglie borghesi certamente non potevano approvare. Ellington ha vissuto tutta la sua vita in questo mondo. E attenzione, agli occhi della Chiesa, sia protestante sia cattolica, in generale delle confessioni cristiane, il mondo del jazz e non solo della vita notturna a cui è connesso è un mondo da cui stare lontani, è un mondo del peccato, è un mondo corrotto, è irredimibile da questa corruzione. Quindi le persone che ci stanno dentro sono persone da tenere a distanza o, se ci si riesce, da salvare. Questo rende ancora più singolare la presenza di concerti jazz, come i concerti sacri scritti da Duke Ellington, che furono pensati per essere eseguiti ed effettivamente furono eseguiti dentro delle chiese. Ora lasciate perdere che oggi spesso, come qui a Santa, come nella stagione di Santa Cecilia, questi concerti a volte vengono eseguiti in contesti profani, ma sono stati pensati, commissionati addirittura da delle chiese. Com'è possibile? Oggi ci sembra ovvio, ma nel 1965 non lo era affatto. Com'è possibile che Ellington abbia potuto portare dei musicisti peccaminosi, la musica del peccato, la musica compromessa e corrotta che viene da un mondo che è nemico in un certo senso dentro la Chiesa? È l'effetto del Concilio Vaticano II. È l'effetto del Concilio Vaticano II, dell'apertura, come sappiamo, della Chiesa a tanti aspetti della vita contemporanea, non esclusa la musica, e negli Stati Uniti non esclusi il jazz. E questo effetto si manifesta anzitutto nel primo dei concerti sacri, che fu commissionato dal parroco della Grace Cathedral di San Francisco, che era una chiesa di recente costruzione e che stava facendo durante la stagione, aveva una serie di concerti, era una cosa clamorosa, si facevano concerti di musica classica, di jazz, per esempio fu eseguito l'oratorio di Natale di Bach, fu eseguito il War Requiem di Benjamin Britten, dentro la stessa stagione un trio jazz suonò un repertorio sacro e il parroco chiese a Duke Ellington di scrivere della musica sacra da essere eseguita dentro la Chiesa, all'interno di questo clima di rinnovamento della Chiesa stessa. Nasce così il Concert of Sacred Music, eseguito il 26 settembre 1965, da cui tra l'altro, proprio da quel concerto, vedremo più avanti dei filmati, perché la serata fu registrata e soprattutto filmata, anche se in bianco e nero, per cui esiste un DVD oggi che ci documenta l'intera esecuzione della prima di questo Concert of Sacred Music. In realtà il DVD è molto recente, ma il Concert of Sacred Music è molto più noto nella sua versione discografica, che fu sempre registrato dal vivo qualche mese dopo, il 26 dicembre del 65, nella chiesa presbiteriana della Quinta Avenue a New York, che poi è diventata appunto un disco. Le due versioni, quella di San Francisco e quella di New York, sono sensibilmente diverse, anche perché intanto c'è un problema di capienza del disco. Ellington non riuscì a mettere nel disco della RCA tutto il materiale del concerto, dovette fare una selezione, e anche perché nel corso delle tante esecuzioni che questo concerto conobbe nel corso degli anni, Ellington continuò, come fa qualsiasi compositore, a ritoccare, arrangiare, cambiare, spostare delle cose, insomma fece continui ritocchi, per cui di fatto non esiste una versione definitiva di questi concerti, anche se per il primo concerto sacro il riferimento oggi è questo disco. Concerto sacro, che cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta di un lavoro costituito da, diciamo, varie parti. Queste varie parti sono parti strumentali, parti vocali, parti corali. Ellington pensa ad una cantata costituita da, in questo caso, 10 episodi per big band jazz, quindi sono 10 episodi molto diversi, ci sono 3 voci soliste maschili e femminili, un coro e perfino, come vedremo, un danzatore di tip-tap. Il motivo, come vedremo, è in realtà molto importante. Uno degli aspetti più interessanti, allora intanto diciamo che questi 10 episodi non sono tutti nuovi, cioè c'è diverso materiale che viene da altre opere. All'interno del Concert of Sacred Music, Ellington utilizzò più volte in modi diversi una bellissima melodia che aveva scritto nel 1942, e cioè Come Sunday, che era una specie di spiritual pensato per la sua suite Black, Brown and Beige. Poi inserì un concerto per pianoforte e orchestra che si chiama New World Coming, che aveva scritto appunto per il suo pianoforte, e poi inserì altri due brani dalla cantata My People, che aveva un carattere, 1963, un carattere di, come posso dire, di celebrazione della libertà dei neri. E i brani sono due brani corali, Will You Be There e Ain't But The One. Quindi lui ricicla parte di questo materiale, ma non è un riciclo, come dire, dettato da opportunismo, ma è un riciclo ragionato, intanto perché Come Sunday, per esempio, è un pezzo pensato come uno spiritual, e poi Ellington non li sentiremo qui, una versione corale, una versione strumentale per il sax alto di Johnny Hodges e una versione rapida. Ma per esempio New World Coming è pensato come una specie di, come dice il titolo, arriva un nuovo mondo, il nuovo mondo che arriva, come una specie di messaggio di pace. Quindi, anche se quel lavoro fu composto negli anni 40, mettere questo brano di carattere pacifista all'interno del Concert of Sacred Music, anche se era un brano profano, era perfettamente congruente con l'idea di Ellington. Uno degli aspetti più singolari, adesso vedremo, entreremo nel dettaglio di alcuni di questi pezzi, uno degli aspetti più singolari, però è nuovo anche per Ellington, è la scrittura per coro. Il fatto che c'è la big band e va bene, ci sono i cantanti e va bene, sul ballerino di Tip Tap diremo qualcosa dopo, ma forse la novità più interessante è il fatto che ci sia un coro, che come sapete nei gruppi jazz non è affatto consueto, certo lo è nel gospel, ma poi avere un coro vuol dire scrivere dei testi. I testi dei concerti sacri sono tra l'altro tutti scritti, come vedremo, dallo stesso Ellington, e poi vedremo che tipo di religiosità emerge da questi testi. Però intanto volevo farvi fare mente locale su, dimenticavo l'ultimo brano, David Danced Before the Lord, che è ancora da My People. La scrittura corale è una scrittura molto interessante da affrontare, perché guardate, ci sono diversi modi di scrivere. Il fondale in armonia vuol dire che ci sono gli accordi sullo sfondo mentre in primo piano succede qualcos'altro, un cantante che canta, un solista di sassofono che improvvisa. È come se fosse il fondale della big band, il coro canta in armonia sullo sfondo. Poi ci sono degli episodi a cappella, vuol dire senza accompagnamento strumentale, solo le voci, scritti in maniera molto libera, senza ritmo. Poi c'è, lo vedremo, la recitazione ritmica, cioè il fatto che il coro parla ritmicamente, non canta, come se recitasse, ma con una cadenza ritmica. E poi invece ci sono delle melodie all'unisono, proprio vere e proprie melodie di carattere jazz. Fate mente locale su questi quattro aspetti, perché li incontreremo di frequente nel corso dei nostri ascolti. Ora, i 10 brani che compongono il Concert of Sacred Music non hanno necessariamente un legame tematico fra di loro. Non andiamo, come nelle cantate seicentesche o settecentesche, gli episodi sono ognuno indipendente dall'altro, non c'è bisogno di andare a cercare per forza un filo conduttore. Però indubbiamente ci sono degli episodi che sono fatti da piccole idee, per esempio tipo canzone o gospel, una melodia, un ritmo che accompagna, il coro che accompagna la melodia. E poi ci sono invece dei pezzi che sono invece molto più complessi, costruiti a vari episodi, a varie sezioni. Uno di questi è quello che apre la suite, almeno nella versione del disco, alla fine del 65. A San Francisco questo brano nella prima assoluta si trovava a metà del concerto, poi Ellington pensò di metterlo giustamente all'inizio. E si intitola In the Beginning God, che sono, lui dice, le prime quattro parole della Bibbia, nella traduzione di Re Giacomo. Tra l'altro Ellington, dimenticavo di dirvi un dettaglio importante, Ellington era, a prescindere dalla vita che faceva e dalla sua personalissima concezione della religione, un avido lettore della Bibbia, nella traduzione inglese di Re Giorgio. Lui nell'autobiografia si vanta di averla letta almeno per intero almeno quattro volte, da cima a fondo, quindi la conosceva molto bene. Ci sono anche degli studiosi che sostengono che dei brani profani scritti da giovane siano addirittura illustrazioni di alcuni episodi della Bibbia. È una cosa da verificare, ma vi fa capire che comunque lui aveva perfettamente assimilato, perfino nel ritmo della lingua di quell'inglese, la Bibbia, l'Antico Testamento in particolare. È un tema che è basato sulle 6 sillabe del testo e quindi è un tema di 6 note. In principio era Dio. La cosa interessante è che in questo testo Ellington prova a descrivere la creazione usando un testo, e qui entriamo in una parte molto, molto divertente anche, usando un testo scritto da lui che ha tutte le caratteristiche di una certa sfrontatezza, ironia, anche una visione molto idiosincratica del racconto. Per esempio, per descrivere come fosse il mondo prima di Dio, lui fa una serie di negazioni, dice che cosa non c'era. Dice il cantonista, no heaven, no heart, no nothing, non c'era il cielo, non c'era la terra, non c'era nulla. E poi a un certo punto vedrete il cantante che nella prima era John Hendrix, che entra e comincia a fare una lista delle cose che non c'erano, che è una lista molto divertente. Niente montagne, niente valli, dice nessun quartiere malfamato, nessuna strada principale, niente notte, niente giorno, niente conto da pagare, niente gloria, vado un po' a caso, niente Cadillac, niente pedoni, niente commercio di letture, niente guardie del corpo, niente carte di credito, niente inviti a conferenze. Mi dispiacerebbe. Va avanti, nessuna pubblicità di televisiva, nessun mal di testa, nessuna aspirina, nessun eroe, nessuno zero, nessun cattivo, nessun buono, nessun limite. E poi ci sono gli animali, nessun barracuda, nessun bufalo, nessun uccello. Qui non lo sentiamo nella versione, nel disco dice anche nessun Beatle. E la gente ride, cioè nessuno scarafaggio, ma evidentemente l'allusione era a qualcos'altro. Dice nessun applauso, nessuna critica, nessun dilettante, nessun professionista, dice nessuna domanda, nessuna risposta. Questo è l'elenco delle cose che non ci sono prima della creazione. Noi adesso, prima di guardare il video di In the Beginning God, volevo farvi vedere il manoscritto delle prime pagine di In the Beginning God, della prima pagina In the Beginning God. Questo è, diciamo, lo sguardo generale, ma se avviciniamo, ecco, tiro fuori il regalo che mi hanno fatto 5 minuti fa, quindi ringrazio la persona, la uso subito, fantastico, eh? Allora, sì, ecco qui. Notate, le 6 note sono queste, pa, pi, po, pi, da, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il tema. Il tema è suonato, nella versione che stiamo per ascoltare, è suonato dopo il recitativo che vi ho detto dell'elenco delle cose che non ci sono, dopo, dal sassofono di Harry Carney, lui lo scrive qui sopra, ed è accompagnato da Proc e Paul, sarebbero Russell Prokop e Paul Gonsalves. Vedete che non scrive i nomi degli strumenti, ma i nomi degli strumentisti. Queste sono le trombe, questi sono i tromboni. Il titolo è riassunto in una cifra, in un codice di 4 lettere, ITBG, In the Beginning God. Era una cosa tipica di Ellington, scrivere sui manoscritti i titoli cifrandoli con 4 lettere. E questo è praticamente il resto poi. Vedete il tipo di scrittura, una scrittura molto nitida, molto chiara, di questo inizio. Però volevo farvi vedere appunto la cellula iniziale delle 6 sillabe che poi rimane sempre la stessa, con delle varianti, ma sostanzialmente con questa nota lunga che arriva poi alla fine. Noi adesso vedremo per intero, perché è un documento molto bello, In the Beginning God nella versione di San Francisco, quella della prima in bianco e nero con John Hendrix alla voce, che è un po' diversa nell'ordine degli episodi, anche un po' più corta della versione che sta sul disco, quindi che è più nota, e preferisco farvela vedere, quindi, in modo da apprezzare meglio quello che accade sulla scena. Ah, scusate, dimenticavo, c'è la struttura delle... dimenticavo, sì, una cosa importante, chiedo scusa. La lista l'abbiamo fatta. C'è un interludio teatrale. Perché sottolineo questo aspetto? Perché Ellington, dentro questa musica, ci mette anche un sacco di, non so come dirvi, di cose che sembrano non appartenere all'ordine della musica sacra. Addirittura questo è un inizio da show di Broadway. Sapete come fa? Uno dice, Madonna, che c'entra? È una cosa molto teatrale, un'eredità di questo mondo teatrale, vi ricordo, il mondo profano, notturno, che entra in chiesa. Poi abbiamo un episodio bellissimo. Il coro recita i nomi di tutti i libri dell'Antico Testamento mentre vedrete in primo piano il sax tenore di Paul Gonzalez che improvvisa su una fase swing. È un episodio di grandissima efficacia. Di nuovo il nostro interludio teatrale. Poi c'è il tema di sei note suonato da Cat Anderson, i Sovracuti, che è un modo, dice Ellington, di raggiungere Dio, fare in modo che la tromba arrivi ad un'altezza impossibile. Poi c'è in crescendo l'elenco corale dei libri del Nuovo Testamento. Nella versione che stiamo per vedere manca l'assolo della batteria, che è il momento del caos primordiale. E poi, infine, il coro e tutta l'orchestra riespongono in The Beginning God il tema iniziale. In sostanza, cosa c'è da ricordarsi? L'elenco delle cose che non esistono, il canto dei libri del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento, e poi l'accelerazione con i libri del Nuovo Testamento. E allora finalmente andiamo a vederlo. Our next selection is the theme of the presentation tonight. As you know, it's taken from the first four words in the Bible, in the beginning God. And it will be stated many different ways, many times. John Hendrick. Possiamo abbassare magari le luci così? Grazie. Questo è John Hendricks. Il tema di sei note adesso viene cantato. Che è questo. No mountains, no valleys, no main streets, no back alleys, no glory, no gloom, no hansom, no halt, no night, no day, no bills to pay, no poverty, no Cadillacs, no limit, no budget, no bottom, no topless, no dogs, no cats, no horses, no snakes, no snacks, no sniffles, no sneaks, no cows, no bulls, no barracuda, no buffalo, no birds, no bees, no beetles, no symphony, no jive, no Gemini 5, no pedestrian, no carriage train. No bodyguards, no credit cards, no conference calls, no TV commercials, no aspirin, no headaches, no sand traps, mud packs, no heroes, no zeros, no naughty, no nice, no applause, no critique, no amateurs, no professionals, no questions, no answers, no singers, no dancers, no nothing. In the beginning, God. In the beginning, God. In the beginning, God. No heaven. Habakkuk, Zephaniah, Micah. Tema di sei note con la tromba di Cat Anderson. Questi sono i libri del Nuovo Testamento. Mark. Matteo, Marco. Luke. John. Acts. Romans. Corinthians. Corinthians. Le varie lettere di Galatians. Ephesians. Philippians. Colossians. Thessalonians. L'orchestra e il coro si prendono gli applausi, questa era a metà del concerto, ma come vi dicevo poi diventerà l'inizio con l'assolo di sax baritono scritto nel manoscritto che qui non abbiamo visto. Passo direttamente all'ultimo episodio del primo concerto sacro, che avete visto tra l'altro già un aspetto per noi importantissimo, la varietà incredibile di stili musicali che ci sono dentro. Tra l'altro, con un gesto inaudito, profano, Ellington fa recitare i libri dell'Antico Testamento durante l'assolo di Paul Gonsalves, che si svolge sul giro del blues. E il blues è quanto di più profano esista agli occhi di una persona religiosa. È addirittura, nella tradizione, chiamata la musica del diavolo. Quindi addirittura opposta, ma Ellington non si fa nessun tipo di problema, il pubblico lo sa, lo riconosce, ma vedremo poi perché Ellington introduce questa diversità. Il brano successivo dal primo concerto sacro ha a che fare con un testo che Ellington ama particolarmente, che è il Salmo 150, perché è un salmo molto famoso, è stato musicato un sacco di volte, perché è praticamente il più noto salmo della Bibbia nel quale si parla di musica. Si loda Dio, se guardate in particolare dal terzo versetto, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, dice, sulle corde con i flauti, con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Cioè, questo salmo ci dice che la lode a Dio passa attraverso anche il movimento corporeo, passa attraverso la danza, passa attraverso gli strumenti e la musica. Ellington, da avido lettore della Bibbia, deve aver molto riflettuto su questo salmo, che come vedremo cita più volte, e chiude il suo concerto, Concert of Sacred Music, con qualcosa di apparentemente inaudito, anzi apparentemente sicuramente mai visto in una chiesa cattolica in particolare, e cioè con un episodio di Tip Tap. Chiama Bunny Briggs, un grande ballerino di Tip Tap, e cosa fa? Prende la melodia dello Spiritual Came Sunday, quello che lui aveva scritto negli anni 40, che è un pezzo lento, una preghiera, lo suona a un tempo molto rapido e lo usa come fondale per il balletto di Bunny Briggs. Tra l'altro questo fondale è accompagnato dalla melodia, appunto, di Came Sunday, che, per la quale Ellington ha scritto un testo che è una sorta di parafrasi del Salmo 150, un testo che tra l'altro dice: Davide, alzati e danza. Davide danza davanti al Signore, con tutta la sua forza ha danzato davanti al Signore. Salteri, tamburelli, arpe e cimbali suonano forte e chiaro. Le trombe cantano e chiamano a gran voce, portando amore ad ogni orecchio. Davide, alzati e danza. Danza davanti al Signore, con tutta la forza Davide ha danzato davanti al Signore. Questo è il testo che sentirete recitato in maniera ritmica dal coro mentre Bunny Briggs danza, e siccome abbiamo il video della prima, noi possiamo adesso vedere questo episodio. Vorrei ricordarvi, episodio che tra l'altro raramente viene eseguito dal vivo, perché bisogna ingaggiare un ballerino di Tip Tap bravo e anche resistente, perché l'episodio non dura un minuto, dura 5-6 minuti, quindi abbastanza lungo. Vorrei ricordare che questa cosa sarà anche inaudita per una chiesa cattolica, ma non lo è per un gruppo jazz, perché Ellington, come tutte le grandi, i leader delle grandi orchestre negli anni 30, per esempio, quando suonavano dal vivo nei teatri, abitualmente avevano dei ballerini sul palco che servivano a stimolare, a fare da guida al pubblico che danzava sulla pista davanti a loro. Quindi avere un ballerino in orchestra era assolutamente normale. Oggi questa tradizione si è persa, perché nessuno va più a ballare fin dagli anni 40, dagli anni 50, almeno in maniera continua, di massa, nessuno va più a ballare con le orchestre jazz, ma quello che fa Ellington era per lui routine, una cosa che avrà fatto centinaia e centinaia di volte. Ma per la prima volta porta la danza di Davide, secondo il Salmo 150, dentro la chiesa. Thank you very much for Esther Merrill. And now, from Bunny Briggs. You know that Bunny Briggs is the Sentite come lo definisce. Most super leviathanic rhythmaturgically syncopated tapstomaticianismist. Thank you. Bunny Bray. Half competition. È un momento straordinario, lo so, il suono non è dei migliori, ma valeva la pena di vedere questo documento eccezionale. Una riflessione prima di chiudere questo capitolo sul primo concerto sacro. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il mondo del cabaret portato dentro la Chiesa. Cioè Ellington, attenzione, senza adattarlo alla Chiesa, Ellington porta il mondo del cabaret dentro la Chiesa e non chiede perdono per i propri peccati. Perché questi non sono peccatori. Perché non sono peccatori? Perché sono degli artisti che danzano e perché Davide stesso, come dice il Salmo 150, celebra Dio attraverso le trombe, i cimbali, i liuti, le danze. Quindi la vita che fa Ellington nel cabaret, compresa tutta l'ironia dei certi passi di tip-tap e così via, non sono estranei. Come se lui dicesse alle persone che sono in chiesa: guardate che quello è anche il vostro mondo, il nostro mondo, ed esso può essere portato dentro la chiesa e non deve chiedere scusa e perdono a nessuno. Il primo concerto sacro ebbe un grande successo, al punto che 3 anni dopo, quindi pochissimo tempo dopo, la cattedrale di St. John the Divine a New York chiese a Ellington di scrivere un'altra cantata, un altro pezzo, chiamato in questo caso Second Sacred Concert, che fu eseguito per la prima volta il 19 gennaio 1968. Purtroppo non abbiamo né la registrazione né il video di quella memorabile serata, ma poche settimane, pochi giorni dopo in realtà, Ellington andò in studio di incisione e nel giro di 2 sedute, fra il 22 gennaio e il 19 febbraio, registrò un album che si intitola appunto Second Sacred Concert. Un'avvertenza: quando voi comprerete il CD, se non ce l'avete già, del Second Sacred Concert, purtroppo per ragioni di capienza del CD i produttori hanno eliminato 2 pezzi obiettivamente minori, ma comunque ci sono 2 pezzi in meno che invece sono sull'LP originario. Quindi chi ha l'LP originario se lo tenga stretto, oppure, tanto so che nessuno mi sente qui, siete autorizzati a scaricarlo, sapete voi come. Però l'LP originario, appunto, perché contiene quei 2 pezzi in più. Ora, il Second Sacred Concert è ancora più esteso. L'album originale era un doppio, mentre tutto stava in un singolo LP, anche se con alcune omissioni, l'intero Second Sacred Concert è ancora più vasto. Guardate quali sono le forze. Ci sono 13 episodi, l'orchestra jazz, c'è stavolta un narratore, 4 voci soliste, ben 4 cori, a volte separati, diversi, c'è anche un coro di bambini, a volte uniscono le loro forze. Quindi è una cantata che ha un respiro molto più ampio. Ci sono 2 cose da considerare, una di carattere generale e una di carattere personale. Quella di carattere generale è che il Second Sacred Concert è un'opera molto più sperimentale del primo concerto sacro. È un lavoro nel quale Ellington dà fondo veramente a tutta la ricchezza del suo linguaggio musicale e contiene pagine di estrema complessità, alcune molto lunghe, altre in questo caso sarò costretto a farvi sentire in alcuni casi solamente dei brevi passaggi. Dicevo, c'è tutta una complessità che vedremo per esempio nel primo brano che ascolteremo tra poco, una complessità di scrittura. Il secondo aspetto di carattere personale è che, essendo stato scritto alla fine del 67, l'inizio del 68, Ellington lo ha scritto quando era appena scomparso Billy Strayhorn. E Billy Strayhorn, che verrà ricordato, poi lo vedremo tra poco, Billy Strayhorn è stato il braccio destro di Duke Ellington tra il 1939 e il 1967, l'uomo con il quale lui ha condiviso tante avventure musicali, è quello che ha scritto tanta musica di Ellington, con cui lui ha collaborato intimamente, con cui c'era una identità di vedute musicali impressionante, ed era un uomo dal talento musicale assolutamente geniale, pari forse quasi a quello di Ellington. La scomparsa di Billy Strayhorn per Ellington, come tutta la scomparsa delle persone che gli erano care, fu un trauma. Vorrei ricordare questo aspetto anche per capire alcune motivazioni dei concerti sacri. Ellington detestava profondamente i finali, la fine di qualcosa. Per esempio, Ellington ha sempre scritto dei pessimi finali per la sua musica, non sempre, spesso. Le cose più deboli dei pezzi di Ellington sono come finiscono. Per lui non si poteva finire, le cose dovevano sempre andare avanti, cambiarle. Quindi la fine per eccellenza, la morte, non era neanche un trauma, era per Ellington semplicemente inconcepibile che qualcuno finisse, morisse. Quindi la morte della madre prima, per esempio nel 1936, che lo portò sull'orlo dell'abbandono completo della carriera, della musica, di tutto, quando lui ormai era già un compositore celebre, stava per lasciare tutto dopo la morte della madre, e fu anzi scrivere musica che lo riportò al mondo. E poi la morte di Billy Strayhorn, cioè di queste persone particolarmente care, furono per lui traumi che lo lasciavano perfino quasi, come posso dire, indifeso di fronte alla capacità concettuale, l'incapacità concettuale di accettare la morte. Una delle grandi protagoniste dei tanti episodi del Second Secret Concert è una donna, una cantante, che Ellington ebbe la ventura di conoscere pochi anni prima, una cantante svedese, che in Svezia in realtà era una celebrità, che veniva sia dal mondo del pop, diciamo così, della canzone leggera, ma in realtà aveva una formazione classica di soprano lirico, quindi è di jazzista, personaggio incredibile. Alice Babs, vero nome Hildur Alice Nilsson, che è morta pochi mesi fa, è morta, come vedete, novantenne pochi mesi fa, a febbraio è scomparsa, quindi le tributiamo anche un omaggio a questa artista eccezionale. Chi volesse sapere di più vada semplicemente su YouTube, veda Alice Babs e scoprirà questa cantante jazz pop che sta in tanti film svedesi, è veramente, veramente un personaggio incredibile. Questa cantante straordinaria folgorò Ellington, che le ha dedicato più di una pagina importante nel Second Sacred Concert. Una di queste, che vi faccio sentire subito, è un duetto. Ellington raramente faceva duetti, aveva un ego gigantesco, figuriamoci se poteva condividere il suo talento con qualcun altro. Stavolta no, lui si mette al servizio della voce di Alice Babs, scrive lui una melodia tutta scritta, senza parole, la accompagna per uno strumento che per lui era inconsueto, il piano Fender, il piano elettrico, e è talmente bello questo pezzo che non sa che titolo dargli. Allora usa il codice di quattro lettere che aveva sul manoscritto, TGTT, troppo buona per avere un titolo, too good to title. Aveva ragione, sentitela, dura meno di 2 minuti. troppo bella per essere commentata anche, senza neanche darle un titolo. In questo secondo concerto, questa è una pagina del concerto sacro, sacro o meno, insomma Ellington la vede come una specie di inno alla bellezza. C'è una pagina, una delle più estese, di cui ascolteremo due brevi estratti, che si chiama Supreme Being, ed è forse una delle pagine più sperimentali di tutto Ellington. Ellington veramente si prese delle libertà, e sul tema della libertà torneremo tra poco, delle libertà notevoli nel descrivere, nel tentare di descrivere cos'è l'essere supremo, ritornando vicino al tema della creazione. Il testo è stato scritto dallo stesso Ellington, di nuovo con questo misto molto idiosincratico di sacro, di ironia, di linguaggio particolare. Vedrete che non è molto difficile da comprendere il testo. E in cosa consiste il brano? Quello che ascolteremo è la prima parte. C'è una parte orchestrale molto convoluta, molto dissonante, con un linguaggio armonico aspro, complesso. È l'Ellington sperimentale, è l'Ellington vicino alla musica contemporanea, che non ti aspetteresti dal jazzista, e che invece non si sottrae all'uso di nessun mezzo musicale, compreso assomigliare, che so, a Stravinsky o a Petrassi o ai compositori neoclassici, come sembra in questa pagina, ma con il suono di un'orchestra jazz. Il pezzo è tra l'altro tutto scritto, non ha improvvisazione. E poi a un certo punto entra il coro, che non canta, ma fa uno Sprechgesang, si dice tecnicamente, cioè un canto parlato, una recitazione ritmica, nella quale troviamo espressioni come essere supremo, esistere un essere supremo, esiste uno, solo uno, uno, essere supremo, dal tuono e dal fulmine, dal caos e dalla confusione. L'essere supremo organizzò e creò il cielo e la terra. Poi dice, perché il buio era profondo e la terra non aveva forma. Luce, bene. Buio, bene. Giorno. E sentirete il coro che va su e giù, dando un'idea del bene e degli oggetti e del bene. Acqua, bene. Terraferma, bene, eccetera. Poi a un certo punto succede una cosa che non vi aspettate, cioè dice il testo, l'uomo per dominare sulla terra, il cielo, il mare, gli uccelli, i gamberi, le ostriche, le tartarughe, i maiali, dice poi l'albero delle mele. E qui a un certo punto succede una cosa molto teatrale. Ellington non ha mai scritto un'opera teatrale, ma aveva un senso del teatro pazzesco. Entra una voce di bambina e chi è che parla? È la mela. La mela di Adamo ed Eva. Non c'è il serpente. Adamo, Evo, il Dio barbuto che arriva. No, è la mela che racconta, il sonetto della mela. Dice, non dimenticherò mai l'albero delle mele. Oh sì, io c'ero, non vi ricordate di me? Io ero la mela, ero là appesa a mezz'aria con le foglie che stormivano nella brezza. Era un giorno così bello, io dondolavo, maturando in pace e con calma. E chi pensate che venne strisciando giù per quel ramo? Il piccolo vecchio serpente. La ingannò, la incantò, la ipnotizzò e la obbligò. Quel simpatico piccolo vecchio serpente mi fece mordere da quella graziosa signora. Tocco da gentiluomo di Ellington. E in verità da allora le cose non sono mai state le stesse. Poi ricomincia il coro e poi torna di nuovo la parte sperimentale che però non ascoltiamo. Quindi partiamo anzitutto dall'ascolto, diciamo, di questo inizio sperimentale e della parte recitata del coro. Questo momentaneamente, scusate, lo saltiamo. Thank you. Eccetera. Sfumato un po' brusco, ma vi faccio sentire l'episodio. Questa recitazione va avanti per un po', e a un certo punto, quando si arriva a parlare dell'albero di mele. Oyster, terrapin, snail, swine, apple tree. I shall never forget the apple tree. Oh yes, I was there. Don't you remember me? I was the apple. There I was, suspended in mid-air, the leaves rustling in the breeze. 'Twas such a lovely day. I was swinging, ripening in peace and quiet. And who do you think came crawling down that limb? That little old serpent. E chi arriva? Quel vecchio serpente. He mesmerized her, hypnotized and coerced her. That cute little old snake made that pretty lady bite me. And things really ain't been the same since. Alla fine, appunto, c'è questo elenco: gli uccelli, animali, serpenti, dominati dalla creazione più perfetta di Dio, l'uomo a immagine dell'essere supremo. Non si potrebbe certo definire un pezzo di jazz, no? È evidente che Ellington sta in fondo seguendo quello che è sempre stato il suo credo in termini di fede musicale, e cioè che la sua musica era, come diceva lui stesso, beyond category, cioè al di là delle categorie. E in questo caso, per dipingere un essere supremo, ricorre a questi mezzi musicali che sono lontani apparentemente dal jazz. Mentre uno dei pezzi più complessi dell'intera e anche più godibili dell'intero secondo concerto sacro è il pezzo dedicato alla libertà, It's Freedom. It's Freedom è diviso in varie parti, alcune delle quali tornano. Questo lo vediamo anche per intero, perché abbiamo l'opportunità di vedere un video notevolissimo. Prima però di parlare del video, vorrei dirvi che cos'è It's Freedom. È anzitutto una canzone, un song. Il testo scritto da Ellington è pieno di una cosa tipica dei testi dei concerti sacri, cioè lui ripete continuamente le parole. Non articola chissà quali concetti, gli interessa la musicalità del testo e di riempire queste ripetizioni di testo con la sostanza musicale, in modo da, come dire, raggiungere una specie di semplicità concettuale. dice: la libertà, essere prigionieri felici dell'amore o andare al di là delle nostre possibilità, raggiungere una stella o interessarsi del fatto che diventiamo quello che già siamo, è pieno di questo, di questi paradossi. Libertà è quello che pensavi di aver sentito. Libertà non è solo un parolone, è quello che devi avere. La libertà va bene di notte e di giorno, su e giù e tutto intorno. Poi a un certo punto chiede al coro di dire la parola libertà in tante lingue. Sentirete la parola libertà recitata in tante lingue. E poi di nuovo riprende la canzone, dice: ha il sapore migliore, zucchero e panna sulla beatitudine, niente più dolori, niente più catene. La libertà è un dolce e ricco, un dolce ricco e fa per me. Poi a un certo punto Ellington viene al microfono e recita lui stesso una parte. E dice la libertà, dice, è una parola che è stata usata molte volte, dice, che viene usata molte volte, dice, per molti scopi diversi. E poi ironicamente dice, e qualche volta anche a favore della libertà stessa. È una piccola osservazione molto acuta. E a un certo punto lui ricorda Billy Strayhorn e dice che Billy Strayhorn ha vissuto attraverso quattro principi morali. Attenzione, l'idea che ci siano quattro principi di libertà in realtà è un audace calco, diciamo variante di Ellington, di un celebre discorso che il presidente Franklin Delano Roosevelt, nel discorso dello Stato dell'Unione del 1941, quindi all'indomani della guerra, il presidente disse alla nazione che c'erano quattro libertà da difendere: la libertà di discorso, di parola, la libertà di religione, la libertà dalla volontà, cioè dall'essere costretti a fare qualcosa, e la libertà dalla paura. Queste quattro libertà sono diventate, diciamo, una parte dell'immaginario statunitense in questo celebre discorso di Roosevelt. Quindi quando Ellington dice che Billy Strayhorn viveva secondo quattro libertà morali, sta, come dire, sfidando in un certo senso l'immaginario statunitense e mettere Billy Strayhorn al posto di Roosevelt. E quali sono le quattro libertà secondo le quali viveva il suo amico Billy Strayhorn? Dice: libertà dall'odio incondizionata, libertà dall'autocommiserazione, libertà della paura di fare qualcosa che sarebbe d'aiuto a qualcuno più di quanto potrebbe fare lui stesso, quindi la libertà da non aver paura di aiutare gli altri, e libertà da quel tipo di orgoglio che potrebbe far pensare un uomo di essere migliore di suo fratello. Poi riprende la parte della canzone. Io non vi faccio sentire la versione integrale, cioè la faccio sentire integrale, ma non dal disco, perché esiste un video di un concerto fatto nel 1969, un anno dopo, in una chiesa di Stoccolma, con Alice Babs e con l'orchestra di Duke Ellington, con un coro svedese. Ve la offro così com'è, perché è un documento eccezionale. Per i feticisti ce ne sono anche i sottotitoli in svedese. The subject of our next selection, which is quite a production, is based on a very popular word. One that is very often used and quite often misused and overused. I'm going to ask the ladies and gentlemen of the choir to tell you the word. Il coro è della radio svedese. Siamo in chiesa sempre, eh? Chiesa di Stoccolma. Freedom, freedom, freedom. qui la scrittura corale è molto jazz, inusuale per i cori sacri. L'armonia. Hodges, ovviamente. Gonzalez. Sweet to the rich complete, is God's sense, sense, sense. delightful choir. Lawrence Brown, trombone. Paul Gonsalves, tenor. And Johnny Hodges. Freedom is quite a word. It's fun and sweet and fat and all those kind of things. And as I say, it's used and overused. And there's a lot being said about freedom and with freedom. It's being said all around the world. So naturally, it's said in many, many languages, like freedom. Liberté. Libertad. Libertad. Libertad. Libertas. Freiheit. Freedom. Freiheit. Frihet. Svoboda. Transubl. Eleferia. Junakoto. Suyo. Uhuru. Kofesh. Freedom. Ricorda Billy Strayhorn. Freedom is quite a thing itself. And of course the word is something else. The word is a wonderful word. Actually the word is used for many purposes. And sometimes the word freedom is even used in the interest of freedom. I always think of freedom in its best and most beautiful form. I think of freedom as it was lived by my friend, my writing and arranging companion, Billy Strayhorn. Billy Strayhorn lived by four major moral freedoms. Freedom from hate unconditionally. Freedom from self-pity. Freedom from fear of possibly doing something that might help someone else more than it would himself. And freedom from the kind of pride that could make a man feel that he was better than his brother. Torna a una sezione iniziale. Perdonerete questa clip così lunga, ma mi pare che meritasse veramente una cosa mozzafiato. Vorrei solo ricordarvi che tutto questo episodio forse non ha nulla di strettamente sacro, no? Freedom in realtà era una parola che veniva molto evocata in quegli anni dai neri, come sappiamo, sono gli anni delle lotte per i diritti civili ed è l'anno del 68 della morte di Martin Luther King, quindi questa parola risuonava e Ellington dà un suo contributo importantissimo. L'ultimo estratto che voglio farvi sentire dal secondo concerto sacro, prima di avviarci rapidamente ad una breve disamina del terzo concerto, è proprio un estratto breve per introdurre un'altra persona importante nella vita di Ellington, il pastore che guardava, che vegliava sul gregge notturno, cioè padre John Garcia Gensel, che era la chiesa luterana di St. Peter's a New York. Chi era padre John Garcia Gensel? Il discorso sarebbe lungo. Comunque è stato il prete, diciamo il riferimento spirituale della comunità jazzistica di New York. Ecco perché è il pastore che vegliava sul gregge notturno nel senso di quei peccatori che lavorano di notte. E tra l'altro lui tutte le domeniche aveva stabilito una serie di concerti, una stagione che si chiamano i Jazz Vespers, per cui si faceva jazz in chiesa alla St. Peter's Lutheran Church di New York. Padre John Gensel è morto poco tempo fa, ma è stata una figura importante per Ellington e, ripeto, un riferimento per i credenti e non credenti, comunque un riferimento spirituale per la comunità jazzistica di New York importante. Duke Ellington gli dedica un brano di cui sentiremo l'inizio, perché è un brano strumentale. Questa volta non ascoltiamo nessun coro, nessuna voce, cioè la voce c'è, ma è quella della tromba di Cootie Williams, che imita con il suo inimitabile growl e wah-wah il pastore che fa un'orazione, che fa un discorso. La tromba che imita la voce. Ne abbiamo parlato domenica scorsa nella conferenza introduttiva su Duke Ellington e qui raggiunge veramente un livello straordinario, con l'orchestra che fa la parte della comunità che risponde. Ascoltiamo l'inizio. fumo, potrete poi ascoltare il brano per intero. A proposito di ascolti integrali, vi suggerisco poi di andare su YouTube e cercare altri due brani. Basta scrivere Duke Ellington, Alice Babs, dal concerto svedese Almighty God e Heaven, che non ho avuto il tempo di farvi vedere e che sono due gemme. Avete notato come è composito il secondo concerto sacro, da Supreme Being a questo brano, passando per Freedom e molti altri che non abbiamo ascoltato? È una delle opere più composite e sperimentali di Ellington. Molto diverse invece dal terzo concerto sacro, che fu composto, fu eseguito un'unica volta il 24 ottobre 1973 nell'abbazia di Westminster a Londra e commissionato per il 25esimo anniversario delle Nazioni Unite, che fu celebrato appunto nel 1973 a Londra. L'album fu pubblicato postumo nel 1975, perché nel maggio di 40 anni fa, del 74, Duke Ellington morì. In realtà, quando il concerto fu commissionato a Ellington, cioè alla fine del 72, Ellington sapeva già di essere segnato, aveva un tumore, era già malato, continuerà a suonare per un anno, scriverà questa musica sapendo che forse poteva essere una delle sue ultime cose, non ha fatto in tempo a vedere il prodotto finito, anzi noi sappiamo che in ospedale nelle ultime settimane di vita era lì a decidere con il figlio, a montare i nastri, a capire, a ascoltare, perché diciamo non tutta la musica che fu eseguita quel 24 ottobre è poi finita nel disco, sia per ragioni di qualità esecutiva, perché era una prima, sia per ragioni di qualità acustica all'interno dell'abbazia. È un disco, è un'opera che è un po' all'opposto del secondo concerto sacro, è molto intima, è tutta basata principalmente sulla voce di, ancora una volta, di Alice Babs e del sax baritono di Harry Carney. È un'opera molto più uniforme, che la critica considera meno riuscita, obiettivamente in effetti lo è, ma appunto è la prima di un lavoro che poi lui, sappiamo, tendeva a revisionare, ma contiene alcune pagine molto importanti, soprattutto intorno a una preghiera, che è il Padre Nostro, che in inglese è The Lord's Prayer. Ora, il brano con cui vorrei concludere questa conferenza, questa è la struttura, diciamo, generale del terzo concerto sacro, però il brano con cui vorrei concludere è l'ascolto di Every Man Prays in His Own Language, cioè ogni uomo prega nel suo nella sua propria lingua. E vorrei ricordarvi, diciamo, come è fatto questo concerto. Sto cercando, scusate un attimo, ecco qui. In sostanza consiste di una serie di episodi, tutti... Aspettate. Facciamo così. Chiedo scusa. Dicevo, una serie di episodi, tutti basati sul Padre Nostro. Noi adesso vedrete appunto la spiegazione di ogni episodio man mano che lo ascoltiamo. Ma sostanzialmente ci sono 1, 2, 3, 4, 5 parti del Padre Nostro. Alcune sono cantate dal coro, altre sono fatte dall'orchestra con lo stesso numero di sillabe del Padre Nostro. C'è una parte in cui Alice Babs intona la preghiera in svedese e infine ce n'è una traduzione melodica per un solo flauto dolce, che è uno degli episodi più toccanti di tutta la produzione ellingtoniana. Alla fine Ellington entra con la sua voce recitante, un po' come fa in Freedom, e dice: quando le onde del mare si alzano in una tempesta e il capitano dà il segnale di abbandonare la nave, siamo sicuri che l'oceano non ha forse la nozione, l'idea, come se fosse un essere pensante, per dimostrare il 150esimo salmo? Cioè, come se la tempesta fosse un modo musicale per celebrare Dio. E dice: e quando un bambino piange dopo il primo, appena nato, dopo la prima sculacciata del dottore, non siamo forse certi, siamo certi che il bambino non stia cercando di dire grazie Dio? Questo è, diciamo, il testo che sentirete alla fine. And the waves of the sea are dashing in a raging storm, and the captain gives the abandoned ship alarm. Are we sure that the ocean has not taken a notion to demonstrate the 150th Psalm? When a baby screams out after the doctor's first spank, are we certain that the baby is not trying to say, thank God? That was bad. Wow. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro percorso. Ellington una volta ha raccontato a un amico qual è stata l'ispirazione per i concerti sacri. È stata una favola francese, il giullare di Notre Dame, o il giullare della Vergine Maria. La favola racconta che alla vigilia di Natale tutti portano dei doni sotto questa statua della Vergine Maria col bambino e... tutti portano dei doni molto ricchi. A un certo punto arriva un giullare che non ha niente se non la propria arte e quindi il suo dono consiste nel fare capriole, cantare, danzare sotto la statua della Vergine Maria. Ellington si identificava evidentemente con quel giullare. Come avete sentito, i concerti sacri hanno uno spettro stilistico ed una visione del mondo estremamente variegata. Allora c'è da chiedersi per questo giullare che cosa significasse la fede. Me lo sono chiesto anche da ateo, tra l'altro. Secondo me, per Ellington, la fede aveva, diciamo, era uno spazio, ed era uno spazio dove far convivere tutta la diversità stilistica della sua musica e quindi trovare la saldezza, anche la forza di ritenere insieme tutte queste cose, e al tempo stesso lo spazio, come abbiamo sentito, di tenere insieme tutte le sue contraddizioni come uomo. Quindi alla fine per lui era uno spazio di libertà. Grazie.